Soldati. Dopo che gli indiani se ne furono andati, una grande pace invase la prateria. Poi un mattino tutto era verde. Quando è cresciuta quest'erba? Chiese mamma stupita. Pensavo che tutta la regione fosse nera e ora non c'è altro che verde a perdita d'occhio. Il cielo era solcato da file di anatre e oche selvatiche dirette verso nord. I corvi gracchiavano sugli alberi lungo il ruscello, il vento mormorava nell'erba nuova, portando un profumo di terra e di germogli. Al mattino le allodole si alzavano cantando nel cielo. Per tutto il giorno chiurli, piviere e piovanelli cinguettavano e cantavano vicino al ruscello. Spesso verso sera i tordi cantavano. Una sera papà, mamma, Mary e Laura sedettero sul gradino dell'ingresso, guardando i conigli che giocavano nell'erba illuminata dalle stelle. Anche tre mamme coniglio saltarono lì vicino, con le loro orecchie cascanti, e rimasero a guardare i loro piccoli che giocavano. Durante il giorno tutti erano indaffarati. Papà si affrettava ad arare, mamma e Laura aiutavano mamma a piantare i primi semi nell'orto, con la zappa mamma scavava piccoli buchi tra le radici d'erba aggrovigliate che l'aratro aveva sollevato, e Laura e Mary lasciavano cadere con cura i semi. Poi mamma li copriva bene con la terra. Piantarono cipolle, carote, piselli, fagioli, rape ed erano tutti così felici perché la primavera era arrivata e presto avrebbero avuto della verdura da mangiare. Cominciavano a essere stanchi di mangiare solo pane e carne. Una sera papà tornò dai campi prima del tramonto e aiutò mamma a disporre i cavoli e le patate dolci da piantare. Mamma aveva seminato il cavolo in una cassettina e lo aveva tenuto in casa. Lo aveva annaffiato con cura, spostandolo ogni giorno da una finestra all'altra perché potesse stare al sole, sia la mattina sia il pomeriggio, e aveva conservato una delle patate dolci di Natale che aveva piantato in un'altra cassetta. I semi di cavolo erano ora piantine grigio-verde, dalla patata dolce uscivano germogli e foglie. Papà e mamma presero con cura tutte le piantine e le disposero accuratamente in appositi buchi scavati per loro. Innaffiarono le radici e premettero per rassodare il terreno in cui le avevano piantate. Faceva ormai buio quando la piccola pianta fu sistemata e papà e mamma erano stanchi, ma erano anche felici perché quell'anno avrebbero avuto cavoli e patate dolci. Ogni giorno tutti loro guardavano il giardino. Era irregolare ed erboso, ma le piantine crescevano. Spuntarono le foglioline accartocciate dei piselli e i germogli delle cipolle. I fagioli sbucavano fuori dal terreno, ma erano piccoli germogli gialli attorcigliati su se stessi come molle che li spingevano su. Poi il fagiolo si apriva e cadeva, spinto giù dalle due piccole foglie che si aprivano, spiegandosi al sole. Presto avrebbero cominciato a vivere come re e regine. Ogni mattina papà andava nei campi fischiettando allegramente. Aveva piantato alcune patate e altre ne aveva messe da parte per piantarle più tardi. Ora trasportava un sacchetto di mais legato alla cintura e mentre arava gettava i chicchi di mais nel solco accanto alla punta dell'aratro. L'aratro rovesciava uno strato di terra sopra il seme, ma il mais si sarebbe fatto strada tra le radici aggrovigliate e lì ci sarebbe stato un campo di mais. Un giorno avrebbero avuto il mais per cena e il prossimo inverno Pet e Patty avrebbero potuto mangiare il mais avanzato. Una mattina Mary e Laura stavano lavando i piatti e mamma rifaceva i letti, canticchiava tra sé mentre Laura e Mary parlavano dell'orto. Laura preferiva i piselli e Mary i fagioli e all'improvviso sentirono la voce di papà, forte e arrabbiata. Mamma andò con calma verso la porta e Laura e Mary si porsero dietro di lei, ciascuna da un lato. Papà stava riportando indietro Pet e Patty che trascinavano l'aratro dietro di sé. Il signor Scott e il signor Edwards erano con lui. Il signor Scott parlava con aria seria. No, Scott, non rimarrò qui per farmi cacciare dai soldati come un fuorilegge. Se quei maledetti politici di Washington non avessero detto che sarebbe stato possibile stabilirsi qui, non mi sarei insediato a 3 chilometri dal confine del territorio indiano. Ma non aspetterò che vengano i soldati a mandarci via, ce ne andiamo adesso. Cosa succede, Charles? Dove andiamo? Chiese mamma. Magari lo sapessi, ma ce ne andiamo. Partiamo da qui, disse papà. Scott e Edwards dicono che il governo sta mandando i soldati a cacciar via tutti noi coloni dal territorio indiano. Il suo volto era rosso e gli occhi sembravano fiamme blu. Laura era spaventata. Non aveva mai visto papà in quello stato. Si strinse forte a mamma e rimase immobile a guardarlo. Il signor Scott cominciò a parlare, ma papà lo interruppe. Risparmia il fiato, Scott. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Puoi stare qui fino all'arrivo dei soldati, se vuoi. Io me ne vado. Il signor Edwards disse che se ne sarebbe andato anche lui. Non sarebbe rimasto lì ad aspettare che lo mandassero oltre la frontiera, come un povero disgraziato. Vieni a Independence con noi, Edwards, gli disse papà. Ma il signor Edwards disse che non gli interessava andare a nord, si sarebbe costruito una barca e sarebbe sceso lungo il fiume fino a qualche insediamento più a sud. È meglio se vieni con noi, insistette papà. Poi andrai a piedi verso il Missouri, è un viaggio pericoloso da solo in barca, scendendo lungo il verdigris tra le tribù di indiani selvaggi. Ma il signor Edwards disse che aveva già visitato il Missouri e poi aveva un sacco di polvere e piombo. Poi papà disse al signor Scott di prendere la mucca e il vitello. Non possiamo portarli con noi, disse papà. Sei stato un buon vicino, Scott, e mi dispiace lasciarti, ma partiremo domattina. Laura aveva sentito tutto, ma non ci credette finché non vide il signor Scott portar via la mucca. La placida mucca se ne andò mestamente, con la corda intorno alle lunghe corna, e il vitello saltellava e zampettava dietro di lei. E quella fu la fine del latte e del burro. Il signor Edwards disse che sarebbe stato troppo occupato per rivederli. Strinse la mano papà dicendo arrivederci Ingalls e buona fortuna. Strinse la mano mamma e disse arrivederci signora, non la rivedrò più, ma non dimenticherò mai la sua gentilezza. Poi si rivolse a Mary e Laura e strinse loro la mano come se fossero adulte. Arrivederci, disse. Mary disse educatamente arrivederci, ma Laura dimenticò le buone maniere e disse oh. Signor Edwards, vorrei che non andasse via. Oh, signor Edwards, grazie, grazie per essere andato fino a Independence a cercare Babbo Natale per noi. Gli occhi del signor Edwards erano lucidi e se ne andò senza una parola di più. Papà cominciò a slegare Pet e Patty, nonostante fosse ancora giorno, e Laura e Mary capirono che se ne stavano andando davvero. Mamma non disse niente. Entrò in casa e si guardò intorno. I piatti non lavati, i letti mezzi sfatti. Alzò le mani al cielo e si mise a sedere. Mary e Laura lavarono i piatti, fecero attenzione a non fare rumore. Si voltarono di scatto quando papà entrò. Sembrava di nuovo lui aveva in mano il sacco di patate. Ecco Caroline, disse. E la sua voce era tornata normale. Preparane un bel po' per cena. Abbiamo rinunciato alle patate per poterle piantare, ora ce le possiamo mangiare. Così, quella sera per cena, mangiarono le patate che avrebbero dovuto piantare. Erano molto buone, Laura sapeva che papà aveva ragione quando diceva per ogni grossa perdita c'è sempre un piccolo guadagno. Dopo cena prese gli archi del carro, che erano appesi nella stalla. Li mise sul carro, un'estremità nella fascetta di ferro da un lato del carro, l'altra estremità nella fascetta di ferro dall'altro lato. Quando tutti gli archi furono al loro posto, papà e mamma stesero il telo per coprirlo e lo legarono saldamente. Poi papà tirò la corda al fondo del telo, finché nella parte posteriore del carro non rimase che una piccola apertura tonda al centro. Ed ecco il carro coperto, pronto per essere caricato il mattino dopo. Tutti restarono in silenzio quella sera. Persino Jack sentiva che c'era qualcosa che non andava e si sdraiò vicino a Laura quando lei andò a letto. Faceva troppo caldo per accendere il fuoco, eppure papà e mamma sedettero davanti al camino guardando la cenere. Mamma sospirò e disse: un anno intero sprecato, Charles. Ma papà rispose allegramente: che cos'è un anno? Abbiamo tutta la vita davanti. La partenza. Il giorno seguente, dopo colazione, papà e mamma caricarono il carro. Prima tutti i letti furono ridotti a due, sistemati l'uno sopra l'altro nel retro del carro con sopra una bella coperta a quadri. Mary, Laura e la piccola Carrie sarebbero rimaste lì di giorno durante il viaggio. Di notte il letto di sopra sarebbe stato messo nella parte anteriore del carro, papà e mamma avrebbero dormito lì, Mary e Laura nel letto di sotto, che sarebbe rimasto dov'era. Poi papà prese la credenza che stava appesa al muro e mamma ci mise dentro le provviste e i piatti. Papà mise la credenza sotto il sedile del carro e ci appoggiò davanti un sacco di mais per i cavalli. Ci farà da poggiapiedi, Caroline, disse a mamma. Mamma infilò tutti i vestiti in due borse da viaggio e papà li appese agli archi all'interno del carro. Di fronte appese il fucile con la sua tracolla e sotto l'astuccio dei proiettili e il corno con la polvere da sparo. Appoggiò il violino con la sua custodia su un lato del letto dove avrebbe viaggiato senza troppi scossoni. Mamma infilò nei sacchi la padella di ferro nero con i piedini, il fornetto e la caffettiera e li caricò sul carro mentre papà legava la sedia a dondolo e la tinozza all'esterno, con sotto il secchio dell'acqua e quello dei cavalli. Poi sistemò con cura la lanterna di stagno davanti al carro in un angolo dove il sacco di mais l'avrebbe tenuta ferma. Il carro era ormai carico, l'unica cosa che non potevano prendere era l'aratro. Per quello non c'era niente da fare, non c'era abbastanza spazio. Una volta a destinazione, ovunque fossero andati, papà si sarebbe procurato altre pellicce da scambiare con un aratro. Laura e Mary salirono sul carro e sedettero sul letto sistemato in fondo. Mamma mise la piccola Carrie tra loro. Erano tutte pulite e pettinate. Papà disse che erano pulite come un dente di segugio e mamma che brillavano come una capocchia di spillo. Poi papà attaccò Pet e Patty al carro, mamma salì al suo posto sul sedile e tenne le redini. E all'improvviso Laura volle vedere la casa ancora una volta. Chiese per favore a papà di lasciarle guardare fuori, così lui allentò la corda sul retro del carro, lasciando una grande apertura rotonda in modo che Laura e Mary potessero guardare fuori senza che Carrie rischiasse di cadere nella mangiatoia. L'accogliente casa di legno appariva esattamente come al solito. Non sembrava sapere che stavano andando via. Papà rimase un attimo sulla porta e guardò dentro: il letto, il camino, le finestre di vetro. Poi chiuse con cura la porta, lasciando fuori il cordino. Qualcuno potrebbe aver bisogno di rifugiarsi qui, disse. Salì al suo posto accanto a mamma. Prese in mano le redini e schioccò la lingua per spronare Pat e Patty. Jack andò sotto il carro, Pat nitrì a Bunny, che si mise a camminare accanto a lei, e così partirono. Poco prima che la strada per il ruscello scendesse nel basso piano, papà fermò i cavalli e tutti guardarono indietro. A perdita d'occhio, a est come a sud e a ovest, niente si muoveva nell'immensità dell'alta prateria. Solo l'erba verde si increspava al vento. E le nuvole bianche solcavano il cielo limpido e immenso. È una splendida regione, Caroline, disse papà, ma ci saranno indiani selvaggi e lupi ancora per molto tempo. La casetta di legno e la piccola stalla erano sperdute nell'immobilità della prateria. Poi Pet e Patty ripartirono all'improvviso. Il carro scese dal promontorio verso le rive boscose del ruscello e in cima a un albero un tordo cominciò a cantare. Non ho mai sentito un tordo cantare così presto, disse mamma. E papà rispose, ci sta salutando. Scesero fino al ruscello. Il guado era basso e lo attraversarono agevolmente. Proseguirono lungo il basso piano, dove i cervi dalle lunghe corna li guardarono passare. E mamma cervo, con i suoi piccoli, scomparvero con un balzo tra gli alberi. Poi il carro salì su per le scarpate di terra rossa per ritrovarsi nuovamente nella prateria. Pet e Patty erano felici di essere lì. Il suono degli zoccoli attutito lungo il ruscello risuonava sulla terra dura della prateria e il vento cantava stridendo contro gli archi anteriori del carro. Papà e mamma erano fermi e silenziosi sul sedile del carro e anche Mary e Laura rimasero in silenzio. Ma dentro di sé Laura era eccitata. Non sai mai cosa succederà dopo né dove sarai domani quando viaggi su un carro coperto. A mezzogiorno papà si fermò vicino a una piccola sorgente per lasciare che i cavalli mangiassero, bevessero e si riposassero. La sorgente si sarebbe presto prosciugata perché l'estate era vicina, ma per il momento c'era acqua in abbondanza. Mamma prese il pane di mais e la carne dalla cassa delle provviste e tutti mangiarono seduti sull'erba fresca all'ombra del carro. Bevvero dalla sorgente e Laura e Mary giocarono nell'erba raccogliendo fiori di campo mentre mamma puliva la cassa delle provviste. E papà riattaccava Pet e Patty. Poi proseguirono per un lungo tratto attraverso la prateria. Non c'era niente da vedere se non l'erba scossa dal vento, il cielo e le tracce senza fine del carro. Di tanto in tanto saltava fuori un coniglio, a volte un tacchino, della prateria con la sua covata di pulcini scompariva in mezzo all'erba. La piccola Carrie dormiva e Mary e Laura erano quasi addormentate quando sentirono papà dire: c'è qualcosa che non va laggiù. Laura balzò in piedi e lontano nella prateria vide una protuberanza di colore chiaro. Non ci vedeva niente di strano. Dove? Chiese a papà. Là, disse papà, indicando con la testa quella protuberanza. Non si muove. Laura non disse più nulla. Continuò a guardare e vide che si trattava di un carro coperto. Piano piano diventava più grande e vide che non c'erano cavalli attaccati al carro. Niente si muoveva nei dintorni. Poi vide qualcosa di scuro sul davanti. Erano due persone sedute sull'asta del carro. Si trattava di un uomo e di una donna. Sedevano a testa bassa e la sollevarono appena quando Pat e Patty si fermarono di fronte a loro. Cos'è successo? Dove sono i vostri cavalli? Chiese papà. Non lo so, disse l'uomo. Li ho legati al carro ieri sera e stamattina non c'erano più. Qualcuno ha tagliato le corde e li ha portati via durante la notte. E il vostro cane? Chiese papà. Non abbiamo un cane, disse l'uomo. Jack rimase sotto il carro senza ringhiare. Era un cane ragionevole, sapeva cosa fare quando incontrava degli estranei. Beh, i vostri cavalli sono andati, disse papà all'uomo. Non li rivedrete più. L'impiccagione non sarebbe abbastanza per quei ladri di cavalli. Già, disse l'uomo. Papà guardò mamma. Lei fece un leggero cenno con la testa. Allora papà disse: Venite con noi a Independence. No, disse l'uomo, tutto ciò che possediamo è in questo carro, non lo lasceremo. Ma come? Come farete? Chiese papà. Potrebbe non passare nessuno per giorni, per settimane. Non potete rimanere qui. Non lo so, disse l'uomo. Rimarremo con il nostro carro, aggiunse la donna, guardandosi le mani strette in grembo. Laura non riuscì a vedere il suo volto. Vedeva solo il bordo della cuffia. Fareste meglio a venire, disse papà. Potrete sempre tornare a prendere il carro. No, disse la donna. Non voleva abbandonare il carro. Tutto ciò che possedevano era lì dentro, così alla fine papà ripartì, lasciandoli seduti sull'asta del carro soli, in mezzo alla prateria. Papà mormorò tra sé che incoscienti. Tutto ciò che possiedono. E non hanno un cane per fare la guardia. E lui non ha fatto attenzione, legare i cavalli con delle corde. Papà sbottò, incoscienti, disse di nuovo, non dovrebbero lasciarli andare in giro da soli. Ma Charles, che fine faranno? Chiese mamma. Ci sono dei soldati a Independence, disse papà. Li avvertirò e manderanno qualcuno a prenderli. Possono resistere per qualche giorno, ma è una fortuna per loro che siamo passati, altrimenti chissà quando li avrebbero ritrovati. Laura guardò quel carro solitario finché non fu più che una protuberanza nella prateria, poi divenne un puntino e poi scomparve. Per tutto il giorno papà continuò ad avanzare, non videro nessun altro. Verso il tramonto si fermò vicino a un pozzo. C'era stata una casa lì, ma era andata a fuoco. Nel pozzo c'era tanta acqua fresca e Laura e Mary raccolsero pezzetti di legno bruciacchiato per accendere il fuoco, mentre papà slegava e abbeverava i cavalli prima di metterli al picchetto. Poi papà tolse il sedile dal carro e tirò fuori la cassa delle provviste. Accesero un bel fuoco e mamma preparò la cena. Tutto era tornato esattamente come prima che costruissero la casa. Papà, mamma e Carrie erano sul sedile del carro, Laura e Mary sedevano sull'asta. Consumarono un'ottima cena, scaldata sul fuoco di bivacco. Pat, Patty e Bunny gustavano l'erba fresca e Laura teneva da parte dei pezzetti per Jack, che non doveva chiedere ma poteva mangiare a sazietà dopo che la cena era finita. Poi il sole tramontò, lontano a ovest, e fu l'ora di accamparsi per la notte. Papà legò Pat e Patty alla mangiatoia in fondo al carro e Bunny di fianco. Diede loro la cena a base di mais, poi sedette vicino al fuoco a fumare la pipa, mentre mamma rimboccava le coperte a Mary e Laura e coricava la piccola Carrie accanto a loro. Poi sedette accanto al fuoco insieme a papà, che tirò fuori il violino e cominciò a suonare. Oh, Susanna, non piangere per me. Il violino suonava mesto e papà cominciò a cantare. Col mio sacco sulla spalla ho varcato il monte e il pian per trovare la mia bella e per stringerle la man. Sai, Caroline, papà smise di cantare per dire: Stavo pensando ai conigli. Si leccheranno i baffi con le verdure che abbiamo piantato. Non pensarci, Charles, disse mamma. Oh, non importa, Caroline, le disse papà. Faremo un orto ancora più bello. In ogni caso, lasciamo il territorio indiano più ricchi di quando siamo arrivati. Non saprei, disse mamma. E papà rispose: Ma come? C'è il puledro. Mamma rise, papà e il violino tornarono a cantare. Nel lontano sud mi fermerò, vivrò e morirò al sud. Via, via, via, via, lontano verso sud. Cantarono con un ritmo così sostenuto che a Laura venne voglia di alzarsi. Mamma doveva rimanere ferma per non svegliare Carrie. Anche Mary dormiva, ma Laura era più sveglia che mai. Sentì Jack, che si preparava la cuccia sotto il carro, girava in tondo per schiacciare l'erba, poi si lasciò cadere in quel letto circolare, con un sospiro di soddisfazione. Pat e Patty stavano finendo di mangiare il mais, le loro catene tintinnavano, Bunny era sdraiata accanto al carro. Erano tutti insieme, comodi e al sicuro per la notte, sotto il cielo immenso e pieno di stelle. Ancora una volta il carro coperto era la loro casa. Il violino cominciò a suonare una marcia e la voce chiara di papà cantava come una campana dal suono grave. Ci riuniremo ancora una volta e il nostro grido di battaglia sarà la libertà. Laura sentì che anche lei doveva gridare, ma mamma guardò dolcemente dal buco rotondo nel telo che copriva il carro. Charles disse: Laura è ancora sveglia, non può addormentarsi con una musica del genere. Papà non rispose, ma il suono del violino cambiò. D'un tratto divenne un ritmo lungo e altalenante che sembrava cullare dolcemente Laura. Lei sentì le palpebre pesanti, cominciò a galleggiare sulle onde d'erba della prateria, mentre la voce di papà l'accompagnava cantando. Rema, rema, rema sulle acque blu, come una piuma sull'acqua non ci fermiamo più. Rema, rema dolcemente, amore insieme a me, giorno e notte insieme io e te. Fine.